Qualcosa in cui se ci crediamo succede, anzi succederà. Qualcosa in cui se ci crediamo succede, anzi succederà. Cambiamenti intorno ad assi trasversi che cambiano universi in due secondi. Incendi su incendi, su tutte le banconote paganti. Senza soldi siamo hippie e saldi, riorganizzati in comuni più pazzi. C'è chi faceva commessa a Footlooker, chi ascoltava Joe Cocker, chi ha perso tutto poker. Un attimo dopo game over, siamo tutti uguali e precisi. Sono visi diversi su pasti condivisi. Coltiviamo la terra, la ganja, il grano per la birra. La mia comune è Waikiki, mangiamo e dormiamo in spiaggia. Ci facciamo la guerra, ma tirandoci guano di scimmia. Il Berlusca suona con Tufan, un crossover da croce a costa. Non c'è posta ma porta e risposta. C'è chi si sposta e chi resta in qualcosa in cui se ci crediamo succede, anzi succederà. Prima o poi succede, se lo vuoi poi accade. C'è chi ci crede da fede e chi ci spera ma non vede che. Prima o poi succede, se lo vuoi poi accade. C'è chi ci crede da fede e chi ci spera ma non vede che. Prima o poi succede, se lo vuoi poi accade. C'è chi ci crede da fede e chi ci spera ma non vede che. Prima o poi succede, se lo vuoi poi accade. C'è chi ci crede da fede e chi ci spera ma non vede che. Carino qui non si addormenterà, su poltrone fatte di elettricità. Il sangue qui non si misura con quel cazzo di petrolio. Si userà la marijuana per accendere il mondo. Spargeremo amore contro odio, fiori contro fuoco. Con lo sguardo alto inerme di fronte a un carro armato. Patrioti per il mondo, quanto ti vorrei diverso. Riscatteremo vite senza voce, violate senza luce. Onorare il diritto a vivere e dovere. Insegnerò mio figlio a metterci il cuore, a condividere. Perché un mondo di pace credo sia possibile, voglio sia possibile. Bimbo torna al gioco, non sei un uomo né un soldato. Donna, prenditi di nuovo corpo e anima, non avrai più fame né vergogna. Prima o poi succede, se lo vuoi poi accade. C'è chi ci crede da fede e chi ci spera ma non vede che. Prima o poi succede, se lo vuoi poi accade. C'è chi ci crede da fede e chi ci spera ma non vede che. Prima o poi succede, se lo vuoi poi accade. C'è chi ci crede da fede e chi ci spera ma non vede che. Prima o poi succede, se lo vuoi poi accade. C'è chi ci crede da fede e chi ci spera ma non vede. Voglio che. Voglio volere volare, smettere di lavorare. Un mondo senza pare, dove ogni uomo una casa in riva al mare e una donna da mare. Voglio ridere di tutte le stragi di stato. Non voglio uno stato, ma uno stato di pace interiore. Non voglio fuori fare sempre l'amore. E poi voglio che non ci sia bisogno di uccidere. Voglio persone sincere, esperienze da condividere. Voglio musiche che non debbano vendere, ma farmi crescere dentro. E poi voglio campi di ganja legali. Voglio avere le ali, vedere l'alba ma ieri, il tramonto alle Baleari. Ma soprattutto voglio succede, anzi succederà. Prima o poi succede, se lo vuoi poi accade. C'è chi ci crede da fede e chi ci spera ma non vede che. Prima o poi succede, se lo vuoi poi accade. C'è chi ci crede da fede e chi ci spera ma non vede che. Succede, se lo vuoi poi accade. C'è chi ci crede da fede e chi ci spera ma non vede che. Prima poi succede, se lo vuoi poi accade. C'è chi ci crede da fede e chi ci spera ma non vede che. In internet c'è la classifica, il Darwin Awards, alla morte, cioè il premio alla morte più stupida. Quello che è morto più da stronzo nell'anno vince un premio, ma ve lo giuro, è straordinario secondo me. Quest'anno ha vinto Charles Berger, che dal 40° piano di un grattacielo, per dimostrare che i vetri erano antisfondamento, ha detto guardate un po', ci ha dato conto, pff, e è caduto giù, perché erano antisfondamento ma dall'esterno. Straordinario, straordinario. Secondo classificato è uno che dormiva e sul comodino aveva il telefono e la pistola. È squillato il telefono, dream, pum, pronto. Vere, eh? Non sono cose inventate. Il terzo, un veterinario che è stato chiamato perché una mucca non andava più di corpo da un mese, è arrivato lì col suo guanto, si è messo il suo guanto, aveva la cicca in bocca, alzato la coda, ha messo il braccio dentro, l'ha stappata, una scoreggia di metano arso vivo sulla sigaretta. Arso vivo.